9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 26 di ottobre. Oggi è una giornata un po' particolare perché, come avete visto, le tensioni politiche si sono aggrovigliate, come era inevitabile di fronte alla scadenza posta domenica al Presidente del Consiglio italiano. La scelta è quella di non varare nuove misure con un Consiglio dei Ministri per l'evidente contrasto che c'è all'interno su un punto, tra l'altro, delicato, quello di cui abbiamo sempre parlato in questi giorni, della sostanziale accelerazione dell'equiparazione dei tetti dei trattamenti di anzianità e di vecchiaia. Sapete, la Lega su questo non molla. Questo è un punto dirimente, voci di governo Letta, di soluzioni politiche diverse, impossibilità quindi di forzare la mano, linea emersa, quella di una comunicazione da rendere al vertice europeo di oggi, senza misure ma concordando un'agenda e dei tempi, perché l'Italia comunque venga considerata adempiente e non inadempiente dal duo franco tedesco, ma in realtà dalla Germania, parliamoci chiaro, paese forte che detta tempi e modi dei commissariamenti e dell'agenda. Su questo sfondo di convulsione politica e su uno sfondo di un'Europa che oggi è chiamata a dare anch'essa delle risposte che sono fino a questo momento mancate sul leverage dell'FSF, su come si dà una risposta al finanziamento delle quote aggiuntive per il salva stati, quale parte è di mercato e quale invece è comune per il rifinanziamento delle banche che hanno eccesso di carta pubblica europea, innanzitutto greca, quale sarà la percentuale di haircuts, cioè di taglio dei capelli, di perdita di capitale da parte delle banche, non dei retailers, ma delle banche che hanno carta pubblica greca. Tutti questi i punti su cui l'Europa oggi deve decidere, ma su questo c'è un punto che riguarda l'Italia. Allora, oggi, di fronte a questo fumo di Ares di Marte sul campo di battaglia europeo italiano, abbiamo deciso di fare una puntata che cambia un po' marcia e cambia un po' la prospettiva. Cioè, siccome siamo stati in queste ultime settimane molto appiccicati sulla realtà quotidiana, la sua evoluzione, seguire i mille problemi aperti sul tavolo europeo e quello italiano, oggi decidiamo di fare un passo laterale, cioè di guardare a tutto questo con una prospettiva fortemente intrisa di un po' di teoria, fortemente intrisa di un po' di eterodossia, e lo facciamo con un personaggio che a me personalmente è molto caro, lo conosco da molti anni e ogni suo libro è stato per me una avventura intellettuale, cosa che è raro quando si parla di economia, ma un'avventura intellettuale perché è una delle rarissime persone, a mio modestissimo giudizio, che esistono nel nostro paese, che ha unito grandi scuole con grandi maestri. Paolo Baffi, uno su tutto, l'ex governatore della Banca d'Italia, con cui lui ha lavorato la Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea, ha una cultura, dal mio punto di vista, che ho una formazione tipo classico e così via, incredibile esattamente su questo, innestando quindi filosofia, storia delle religioni, antropologia, tutto questo in una matrice, come la vogliamo chiamare, tedesca di inizio dello scorso secolo. Ecco, questo è il punto, il riferimento che farei io. E quindi, quando io trovai a leggere il libro alla fine degli anni '80, Le soluzioni economiche di Faust, dissi, avevo capito ancora poco di questa persona. Avrete capito, alcuni di voi, che sto parlando al professor Geminello Alvi, che è qui con noi ospite in studio e con il quale oggi parleremo di questo suo ultimo libro, Il capitalismo verso l'ideale cinese, che è edito da Marsilio, collana ai nodi, e un altro di quei libri, a mio giudizio, totalmente imperdibili. Io ringrazio e saluto il professor Geminello Alvi, che è qui con noi. Buongiorno, grazie Oscar. Vorrei dirvi che vi potrà sembrare un po' singolare che in un giorno come questo, invece della polvere del campo di battaglia italiano europeo, noi assumiamo il punto di vista di questo libro, Il capitalismo verso l'ideale cinese. Però attenzione, se voi non avete letto i libri degli anni alle nostre spalle, Geminello Alvi, vi sfugge, e io ve lo sottolineo, che in ciascuno di questi c'era un'anticipazione di ciò che avveniva negli anni successivi. Ci parlavamo prima con Geminello Alvi del fatto che uno dei libri che ha animato all'epoca, 6 anni fa quando uscì molto il dibattito italiano, perché rifaceva tutti i conti di come nel reddito nazionale la quota di lavoro rispetto alle rendite era tra virgolette condannata a una deriva storica, in quel libro c'era un capitolo che si intitolava Mentire al popolo, che identificava 6 anni fa ciò che sarebbe avvenuto per l'Italia e per la Grecia quando i tassi sarebbero andati diversamente da quelli che zio Alan Greenspan aveva aveva messo nel mondo molto bassi e su cui abbiamo costruito l'illusione che si potesse crescere nei paesi anglosassoni un eccesso di consumo privato finanziato a debito, ma anche in Europa l'illusione dell'euro, che con quei tassi fosse possibile per tutti fare la moneta comune, accumulare debito pubblico, ed entrambe le illusioni sono alla radice di questo paradigma che salta da 4 anni, 5 anni ormai quasi a questa parte, e beh, il professor Geminello Alvi ce l'aveva spiegato. Allora, questo libro è un libro particolare perché apparentemente, se lo leggete in maniera superficiale, dite: oddio, questo è un libro che dice che stiamo andando alla fine del mondo. Vi leggo solo l'ultima riga, che è un'ultima riga quasi da, per così dire, saggezza sapienziale, ma anche leggermente apocalittica. Io vi invito a non spaventarvi. L'ultima riga del libro è: ci sarà bisogno dei pochi quando il drago sortirà dall'abisso, che non è esattamente una cosa che chi è a casa dice: mio Dio, oggi ci spiegate che c'è la soluzione dietro l'angolo. Non c'è la soluzione dietro l'angolo, però attenzione, perché sui tratti dei paesi emergenti dell'Asia e della Cina qui c'è una riflessione un pochino, diciamo, meno ordinaria di quella: abbiamo abbattuto i bassi costi, diventiamo tutti cinesi anche in Occidente. Qui c'è una riflessione che ha a che vedere con i tratti di fondo delle economie di mercato rispetto a che tipo di libertà e di democrazia sia davvero imprescindibile, come eravamo immaginati, avevamo imparato a ripetere agli studenti. Eh no, mica tanto, non è così, Geminello, vero? Sì. Sì, il punto, cioè, questo libro nasce da una constatazione, e cioè dal fatto che l'ultima disastrosa sfida che ci è proposta dopo quella, appunto, della finanziarizzazione, è quella della Cina, e questa sfida ha, come dire, reclamato naturalmente le sue vittime, ma soprattutto ha nutrito, come dire, un insieme di ambiguità su quello che è la Cina e l'economia cinese. Aiuto sul fatto che tutto sommato quello cinese sia un capitalismo, cosa sulla quale si può anche concordare, ma a patto di arrivare a una definizione un pochino diversa di capitalismo. Quella cinese è in effetti un'economia controllata da il Partito Comunista, che ha 75 milioni di iscritti in Cina. È un'economia controllata attraverso un sistema bancario che obbedisce ai criteri delle banche di Stato previste dal manifesto del Partito Comunista di Marx. È un'economia nella quale non c'è, appunto, una proprietà privata significativa, o meglio, c'è un controllo totale di gran parte della proprietà da parte del partito, e c'è una moneta del tutto sottovalutata. Ci sono, cioè, tutti i caratteri di un sistema che è qualcosa di mezzo tra il mercantilismo e il comunismo. E il gran paradosso è che questo sistema è un sistema che viene considerato oggi vincente, invidiabile, diventa una minaccia proprio per questo, anche da parte del capitalismo. Allora la mia domanda è: ma com'è possibile questo? Come ce l'hanno spiegato questo capitalismo? Ma non era il mercato, ma non era Greenspan, ma cosa ha fatto Greenspan? E la risposta che do io è: guardate che i primi complici di questo sistema sono stati gli americani. Io mi ricordo negli anni 90, ero in Svizzera, insomma, nel 95, mi ricordo un collega svizzero mi diceva: sono stato in America, un disastro, e la deindustrializzazione, eccetera. Poi si ritrovarono questo suonatore di sassofono e questo statistico peritissimo, che era Greenspan, insieme a Clinton, appunto, e lanciarono questa idea di che una produttività che comunque sarebbe cresciuta per via dell'innovazione, e soprattutto di una stampa di moneta. Una stampa di moneta che ha nutrito dall'inizio il boom cinese e continua a nutrirlo, perché quello che dicono per solito, tra virgolette, i giornali, ho molto rispetto per alcuni giornalisti come te, ma insomma, in genere si è insegnato alla gente che sono i cinesi che tengono per il collo alla fine l'America con il suo enorme debito, eccetera, eccetera. Ma non si dice che ogni anno, insomma, le banche cinesi accumulano enormi sofferenze e vengono ricapitalizzate. L'ultima volta, prima della TARP, per cifre sono state ricapitalizzate per cifre non inferiori a quelle usate nella CARP, cioè un enorme sistema in perdita che, con una sovracapitalizzazione che non discrimina gli investimenti, crea naturalmente prezzi di dumping e condizioni non concorrenziali totali, ma viene rifinanziato ogni volta sui mercati internazionali. Per cui queste banche ricapitalizzate fanno dividendi perché gli comprano a un certo punto a un sovrapprezzo gli azioni americane. Quindi il gioco è molto più complicato e più ambiguo di quanto non appaia. Cioè, tradotto, per chi non è un tecnico dei circuiti monetari e di come si traducono le velocità di assunzione delle decisioni politiche monetarie fino all'economia reale, con i bassi tassi di Greenspan e l'enorme eccesso di liquidità, cioè di dollari in giri per il mondo prodotti dal torchio americano, noi abbiamo creato, loro hanno creato, una delle condizioni fondanti del successo cinese, l'eccesso di dollari. È un molto bello passaggio nel libro di Gemiello Alvi, in cui, per chi naturalmente è come me critico per i tassi di interesse sempre troppo bassi, i keynesiani dicono sempre che tra un aggiustamento reale dei salari e tassi di interesse più alti bisogna sempre scegliere i tassi di interesse che siano i più bassi possibili. Non è così nella storia del mondo. Nella storia del mondo l'oceanica liquidità crea enormi condizioni che, certo, poi esplodono, certo. Però Greenspan nel 66, che quando era grande discepolo di Ayn Rand, un mito per noi tutti, poveri quattro gatti che vediamo nella esule russa liberale liberista, no? Quella di Atlas Shrugged, chiunque abbia letto il libro sa di che cosa sto parlando, una specie di ideologizzazione del talento dell'imprenditore individuale in lotta contro il mondo. Eppure lui nel 66 scriveva: il grande errore dei tassi di interesse troppo bassi che portarono al 29, poi diventa presidente della Fed, certo, e fa l'esatto, cambia, opposto, certo. Perché lì, Oscar, il punto è squisitamente, è sottile, e la semplificazione, direi giornalistica, accademica, purtroppo accademica di oggi, non dà conto del problema. Cioè, qui si è educata una generazione di politici e di economisti al fatto che un po' di spesa pubblica serve comunque e c'ha effetto subito e ripermette di riavviare l'accumulazione. È una menzogna. Come aveva spiegato il grande von Hayek e come spiega ogni teoria del capitale, il capitale richiede una attitudine completamente diversa, perché la moneta non ha effetti solo sul livello generale dei prezzi, esatto, ma ha effetto anzitutto sul livello relativo. Cosa significa questo? Significa che questa moneta è andata prima a creare un boom delle triglie asiatiche e poi a sgonfiarlo, poi un boom di internet e a sgonfiare anche quello. Questi hanno avuto per effetto che si sono gonfiati troppo i capitali investiti in certi settori e si sono invece sgonfiati i capitali investiti in certi altri, con il risultato che i prezzi dell'energia sono schizzati alle stelle perché si era investito troppo poco. Tutta la storia degli ultimi 15 anni è la conferma che nella polemica tra Hayek e Keynes aveva ragione Hayek, cioè l'uso, la stampa di moneta è un criterio pessimo per orientare, è un criterio appunto sovietico, marxista, e Greenspan l'ha applicato. Perché crea degli squilibri nell'accumulazione di capitale, i cui effetti sono davanti a noi. Uno di questi squilibri si chiama euro. Allora, diciamo, il capitalismo, l'economia di mercato, nelle mani di cattivi regolatori e cattivi accademici e cattivi politici. I politici io li metto alla fine, perché diciamo che il peggior danno lo fanno i regolatori monetari e gli accademici, poi arrivano anche i politici, che di solito ci capiscono meno di queste cose nella media, in tutti i paesi avanzati. Però in cattive mani il capitalismo diventa una roba, scrive in questo libro Geminello, che alla fine richiede o la stampa di banconote a iosa o lo stato di guerra per le correzioni. Allora, l'euro invece nasce con questa grande illusione, i tassi bassi, tutti alla convergenza, e però nasce per non fare più guerre. Ma appunto, nasce l'euro, io ho scritto lì appunto il capitolo che si è dedicato all'euro, si chiama La commedia dell'euro, perché l'euro nasce da uno sforzo subito decorato in un certo senso degli europei, che dicono: ah, siamo riusciti a fare una cosa grandiosa, siamo riusciti a fare l'euro, eccetera eccetera. Ma non è vero, nel senso che il successo dell'euro non dipende né dai sacrifici fatti, che sono minimi, e fatti tra l'altro per lo più non tagliando le spese, persino in Italia è stata tagliata ad un niente, ma aumentando le tasse, ma soprattutto l'eurotassa, aberrazione, perché un conto di patrimonio, visto che poi era un prestito forzoso e andava restituito, è stato scritto in un conto di reddito, quindi una cosa per cui si dovrebbe andare in galera. Comunque, al di là di questo, perdonami, ho perso il punto. No, è l'illusione con cui l'euro si deve al fatto che c'erano i cinesi che producevano deflazione e c'era Greenspan che teneva i tassi bassi. Questo ha permesso il rientro italiano negli anni 90 così veloce, e ha creato una situazione assurda nella quale ci si è indebitati troppo a tassi troppo bassi. I governi di destra o di sinistra non hanno nessuno tagliato di spesa, cosa ancora più deprecabile che non abbiano fatto i governi tra virgolette di centrodestra, sempre lo ripeto, ecco, sempre. Ecco, quindi questo ha creato una situazione d'America Latina. Però Romano Prodi, bello fortunato a stare in quegli anni. Adesso io non voglio mancare di rispetto a Romano Prodi, ma dico dubbio. Stare in anni con grandi progetti europei in cui c'hai tasse di interesse basso che ti possono consentire una convergenza facile, una grande illusione monetaria, beh, non oggi è male. Si paga male, il conto, perché noi siamo saltati sul carro di un calcolo politico francese che dipendeva dalla Seconda Guerra Mondiale, e cioè diceva Mitterrand: noi abbiamo la bomba atomica, ma quelli hanno il D-Mark, e il D-Mark conta più della bomba atomica, dobbiamo toglierli. Hanno approfittato della riunificazione per ricattarli, perché questo è successo, e hanno inventato questa cosa dell'euro, con i tedeschi che dicevano: no, noi dobbiamo prima fare un'unità politica, poi faremo le monete unite, perché altrimenti il sistema si sfascia. Cosa che si sta verificando tra l'altro regolarmente. Noi, nel desiderio di finire la dominazione italiana in Italia, che forse alla fine è stata considerata peggiore di tutte le altre, noi in questo desiderio siamo saltati su questo carro. Ci abbiamo visto una soluzione magica dei nostri problemi, perché ci abbassava i tassi. Ma poi, quando i tassi sono ritornati alti, noi ci siamo trovati in una situazione paradossale. Ci abbiamo gli stessi tassi di interesse della lira e non possiamo più svalutare, come ci serviva e moltissimo fare, ce l'ha servito moltissimo nel 95, perché abbiamo appunto una moneta, cioè abbiamo i tassi a breve fatti dalla BCE, che però non contano niente, perché i tassi nostri veri li fanno appunto, i tassi a lunga li fa il debito pubblico. Esatto. Cosa che era scritta in qualunque manuale d'economia e che io già, mi permetto di dirlo, avevo previsto a fine degli anni 90, detto in più occasioni, in dibattiti pubblici, sul Corriere della Sera, in varie occasioni, ma tutti a dire che non era così, e adesso vediamo che è così. Allora, il problema è che agli italiani tutto questo purtroppo gli torna, perché avete imparato negli ultimi anni di crisi, voi che ci ascoltate, che alla fine, come vedete, non è il tasso di interesse ufficiale, come non è l'Euroliber quello su cui le banche si regolano per il finanziamento a breve, perché è la rischiosità degli asset che ci hanno in pancia, così viene traslato su di voi tutto il costo vero del denaro, non l'illusione che avessimo un costo unico per tutta l'area europea. Quindi questo ve lo dico perché non mi sembrino chiacchiere lontane dalla vostra vita quotidiana quelle che vi sta proponendo, i ragionamenti che vi sta proponendo Jimmy Lillard. Adesso che succede? Visto che tu 6 anni fa diceva Italia come Grecia, quando arrivato nei tassi noi correremo serio rischio di andare fuori, secondo te al punto in cui siamo oggi, questa divisione politica, l'Europa che ci mette nell'angolo, la risata in faccia di Sarkozy, la Merkel eccetera, come li interpreti? Cosa succede? Insomma, qui bisogna ricordarsi un pochino, ecco, la situazione. Qui l'euro è una parte di questo grande capitale squilibrato, io lo chiamo capitale fittizio, è stato creato per i mutui, e l'euro è in pratica un qualcosa del genere, è stato creato e levitato su questa congiuntura dei tassi. Il problema vero è che in qualche modo a questo capitale, chiamiamolo euro, dovrebbe corrispondere nel futuro un'efficienza, un ritorno, un rendimento, cioè che dipende dalla crescita dell'economia. Ora, negli anni in cui si doveva riformare l'economia italiana, cioè l'economia italiana andava riformata, avevano riformato la loro i tedeschi sono presi la responsabilità con un'economia che funzionava con Schröder di fare 4 milioni di disoccupati. Esatto. Noi invece a vantare un'occupazione che non valeva niente, perché era fatta di avvocatuncoli e di badanti, ad essere tutti contenti di aver fatto una riforma delle pensioni che appunto la rifai da 20 anni e non è mai fatta seriamente, e così via. Quindi voglio dire, cosa succede? Beh, dipende anche molto, insomma, da un insieme di succede che il capitale si deve inevitabilmente ridimensionare, e questo ridimensionamento del capitale impone inevitabilmente una qualche forma di se non di consolidamento, di ristrutturazione. L'altro, quello che sta succedendo in Grecia, quello che sta succedendo in Grecia è uno scenario ovvio che non dipende dalla speculazione. Non è vero che dipende dalla speculazione, dipende dal fatto che è il denaro è una fiducia, cioè il capitale corrisponde a un atto di fiducia, e questo vale sia per il capitale, se si vuole, industriale, ma vale anche per il capitale messo dagli stati. Il capitale messo dagli stati ha questa strana virtù da un po' di secoli di creare base monetaria, di essere una base per l'espansione, appunto. Beh, le banche hanno messo appunto i titoli pubblici, sono a garanzia, sono gli attivi a fronte del quale sorgono molti problemi per il capitale delle banche. Quindi inizia un periodo di uno scenario nel quale o si riesce a mobilitare veramente il capitale, ma questo significa significa utilizzare il patrimonio pubblico in un modo meno dilettantesco, esatto, da quello paventato, perché è quello che si simula oggi. La possibilità di vendere gli investimenti è una sciocchezza, tecnicamente è impossibile farlo in breve tempo. Bisognerebbe creare un veicolo, esatto, questo veicolo metterlo in forma di un fondo nel quale, a garanzia dei capitali privati o delle banche, insomma, denominati in tipo di pubblici, in modo che appunto questo garantirebbe una qualche, come dire, mettere un 200-300 miliardi in questo veicolo e garantire alle banche la possibilità di un'eventuale conversione dei titoli pubblici in queste attività, beh, sarebbe già un modo per diminuire almeno l'ammontare della loro ricapitalizzazione. Però è esattamente questa la strada che in questi anni, quando abbiamo proposto, io più volte ne abbiamo proposto, abbiamo proposto anche al Ministro dell'Economia, abbiamo avuto come risposta una levata di spalle dicendo: siete dei matti, in Italia non si può fare, nessuno darebbe credibilità a questo. La risposta però è stata: nessuna misura. E su nessuna misura, adesso ci fermiamo perché dobbiamo lanciare la pubblicità, su nessuna misura l'inevitabilità della riduzione del capitale di ciascuno di voi una volta che viene meno la fiducia in base a cui c'era stata la creazione di moneta, cioè la via greca. Questo è inutile che vi raccontino che non avviene, perché è una possibilità certa anche per l'Italia. Venendo, se, esatto, uno guarda, esatto, i BTP o i CCT e li va a vendere, valgono 80, valgono, non valgono 100, esatto, valgono 84, esattamente, valgono 95, perché sia chiaro, valgono, che come lo, vi posso sembrare che stiamo teoriche, parlando, esatto, di qui già è un capitale investito in titoli pubblici. Se uno lo riscatta oggi in CCT, un CCT da qui a 5 anni, non vorrei dire al 2016-2015, già credo che siamo sotto i 90. Esatto, o quindi non ci vorrei rimettete tra il 10-12-13-14%. Già il sistema sta funzionando, esatto, in quella direzione. Una grande correzione che riguarda voi tutti. Questo significa non prendere le decisioni giuste e non capire da parte dei politici e dei regolatori. Eccoci tornati qui in studio in questa giornata di attesa per decisioni europee dopo le non decisioni italiane. Abbiamo in studio con noi Geminello Alvi, stiamo parlando di questo suo ultimo libro, dopo una serie di libri che vi invito tutti a riprendere in mano, dalle istituzioni economiche di Faust, Il secolo americano, Vita fuori del mondo, Ai patri perdono, Diario di viaggio, L'anima e l'economia, Una repubblica fondata sulle rendite, che è il libro di cui stiamo parlando, che 6 anni fa rifece un po' il conto economico di dove vanno, nelle tasche di chi vanno, la produzione italiana, perché documentava come e perché la parte che va in redditi da lavoro rispetto alle rendite avesse preso una specie di piega storica per la quale diminuiva sempre. E questo libro nuovo è il libro che si intitola Il capitalismo verso l'ideale cinese. E parliamo un secondo però del libro precedente, perché è stata un'esperienza fantastica, perché dovete sapere che Geminello Alvi ha avuto parte nel progetto editoriale di cui si è molto parlato recentemente, quello di Bernardo Caprotti, il padrone fondatore di Esselunga, uno dei geni della grande distribuzione italiana, tenacemente impegnato da anni in una specie di confronto storico sul territorio italiano con gli amministratori locali rispetto al Coop. E il libro, che si chiamava Falce e Carrello, di cui Geminello Alvi aveva scritto la prefazione, è stato un libro protagonista di una vicenda giudiziaria alla quale si è tornato poi, per decisione di un giudice, a bruciare i libri. Adesso io dico bruciare i libri senza che si faccia di nuovo i roghi come ai tempi ovviamente del Terzo Reich, dei libri presi dagli autori ebraici o dalle sinagoghe, però l'idea è, anzi lì il giudice ha deciso che quel libro andava ritirato dal commercio, una cosa che a me ha lasciato senza parole. Chiedo al prefattore di quel libro che impressione ha fatto che un giudice abbia deliberato questo. Mi sorprendi questo, perché mi costringe a parlare di un argomento che per me è un argomento. Io sono stato condannato per aver scritto una prefazione, condannato appunto con gli altri al pagamento di 300.000 euro per aver scritto una prefazione nella quale scrivo che ci sono più cooperative rosse nelle regioni rosse. Credo che di fronte a cose del genere, poi il libro va bruciato, perché naturalmente, insomma, o comunque va bruciato, insomma, deve essere ritirato, non so bene. Quindi è per me stata una prefazione, ma se scrivere una prefazione in cui si dice che ci sono più cooperative rosse nelle regioni rosse implica la multa di 300.000 euro, concorrenza sleale e in più appunto fastidi legali non finiti qui senza fine, si può immaginare. Io purtroppo non un argomento non, troppo non personale, non volevo farla tornare su questo argomento personale, però la singolarità di una decisione che torna a ritirare per ordinanza di un giudice i libri da libera lettura, a me qualunque cosa ci sia scritto in quel libro mi provoca dei cacchini e delle risate. In realtà poi mi perprime, perché mi fa inevitabilmente nutrire perplessità molto profonde sul fatto che davvero l'ordinamento italiano creda di dare risposte di questo tipo. Sapete qual è la questione, lo sfondo di questo, della contesa da sempre relativa alle aree e ai permessi, che sono naturalmente nella quale io non sono entrato, esatto, minimamente, perché ho scritto una prefazione, ma non c'è dubbio che è tra due gruppi, uno privato e un altro in forma cooperativa per aree della grande distribuzione italiana. E da questo punto di vista Bernardo Caprotti, sapete che per, dopo la pronuncia del giudice, ha fatto un passo indietro di nuovo nella sua azienda, che in materia di concorrenza vengano risolti da giudici penali facendo ritirare i libri, a me crea veramente un moto di incomprensione totale. Allora, abbiamo spiegato a casa che lo sfondo di questa guerra del riallineamento del valore europeo ha una spiegazione mondiale. L'America ha un rimbalzo cinese. I cinesi devono anch'essi gran parte, molto più di quanto ammettano, del loro sviluppo a questo fenomeno di illusione monetaria. Gli italiani rischiano adesso una brutta botta se non si prendono decisioni rapide, che però in tutti questi anni non si sono viste. Prima di fare un altro passo nella quotidianità, vogliamo spiegare perché Geminello Alvi propone sempre una sua rilettura del capitalismo. Il capitalismo va corretto, non bisogna essere anticapitalisti, ma accettare l'idea del dono e non solo dell'interesse, e l'idea di una minor crescita di quella che siamo abituati a ripetere agli studenti, a ripetere come possibile, come obiettivo anzi ideale. Queste due sono due correzioni di fondo di una sana visione del capitalismo altrimenti arrembante. Ma lì il punto vero è che quando si parla, cioè il punto drammatico, cioè la cosa è resa drammatica oggi dal fatto che tutti parlano e non sanno di cosa parlano, cioè parlano di crescita e parlano di PIL. Ora faccio un pezzo appunto per vedere quanto il PIL contraddica tutti i sani criteri appunto di Mill, ma anche di grandi di Smith, ma anche di grandi statistici italiani come Corrado Gini, come economisti come Giorgio Foà, eccetera, eccetera. Ma è soprattutto il livello d'astrazione dell'economia. L'economia è un modello mentale in cui tutti parlano di crescita e hanno un'idea per la crescita. Il tassista è una, come dire, neppure il banchiere sa cos'è un CDO, un CDS. Mi spiego, lo sa nell'operatività della cosa, ma in qualche modo le cose vengono in un certo, gli aspetti tecnici vengono le funzioni di probabilità che stanno dietro le varie operazioni finanziarie sono state, come dire, date per scontate. È un mondo di astrazioni, di matematismi, di giochi. Allora il problema è, riportiamo ai fatti, cioè noi crediamo che questa parola magica crescita basta ridare un posto ai nostri figli, una posizione nella società a chi l'ha perduta, dove non c'ha lavoro, una dignità comunque alle nostre vite. Non è vero, la dignità umana e l'economia sono cose molto serie che non trovano scorciatoia nella stampa di denaro da parte dello Stato, perché questo alla fine poi di tutti questi ragionamenti tutti chiedono, tutti vogliono che i politici ci pensino loro. I politici poverini, ma possono essere adatti insomma non solo a sfiorare minimamente il problema, cioè questa, loro vengono caricati di responsabilità che non meritano e non possono nemmeno, come dire, recitare, perché il sistema è un sistema, al quale si chiede troppo e tutti chiedono troppo e tutti chiedono le funzioni più varie, cioè tutti vogliono fare tutto. Noi abbiamo un difetto di muratori, di falegnami, eccetera, ma abbiamo un'abbondanza di frequentanti scuole d'arte, di pretesi cantanti, abbiamo cioè quello che io chiamo appunto una condizione di stati alterati, in cui si è attuato, il capitalismo ha attuato un principio comunistico, cioè quello da ognuno secondo le possibilità, ognuno secondo i bisogni. Di qui si vuole il reddito garantito addirittura, perché poi la magia del denaro, oppure prende, come se il capitale fosse una massa, fosse un gruppo di un po' di grano che si porta da una parte e dall'altra, tu ce n'hai troppo e ce n'hai troppo poco. Questo è primitivo. Il capitale non è questo, il capitale è un nesso vivente di intelligenza, operosità, energia, che trova poi riscontro nei bilanci e nella corrispondenza tra il risultato ottenuto mettendolo in atto e la fiducia che all'inizio è stata accordata all'esistenza di questa magia che è il capitale. Non si capisce che il capitale è una cosa vivente. Allora da qui nasce, come dire, il fatto che tutti vogliono tutti, e questa crescita, più c'è crescita e più tutti potrebbero volere tutto e essere giustificati in questa loro pretesa. Questa è la follia per cui io me la prendo con una, non tanto con la crescita, ma con tutte le cose a cui in un immaginario in un immaginario, una plebe ormai simula tutte le proprie, come dire, vanità. E non è un caso che la parola capitalismo sia stata usata non da Marx, che ha usato la parola capitale facendo dei grandi guai tra l'altro, ma sia stata appunto usata per la prima volta nella letteratura inglese dall'autore della Fiera del Vanity Fair, della Fiera della Vanità. È abbastanza singolare, insomma. Nel capitalismo c'è un elemento, come dire, di vanità, di inutilità. A questo proposito, c'è una parte, per chi conosce il pensiero di Alvi, non è una novità, ma rispieghiamola a chi sta a casa, in cui si dice una delle forme attraverso cui il capitalismo è diventata la pratica quotidiana è quella di assecondare troppo questo facile desiderio dell'avidità. Insomma, il capitalismo da questo punto di vista è il cavallo di Troia di Ulisse, è l'inganno, mentre invece c'è un'epica nella mitezza, nella fraternità, e questo che può sembrare un classico ideale francescano, invece Geminello Alvi lo traduce sempre in concrete modifiche di come è organizzata la vita di noi tutti, come tutti le immaginiamo con l'idea di Stato. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che all'economia del dono, come scambio consapevole, andrebbe improntato tutto ciò che noi siamo abituati a chiedere allo Stato, dalla sanità al sostegno alla famiglia, al welfare, eccetera, eccetera, con esempi concreti. Allora, questa economia del dono, per non essere confusa, lo Stato ci deve dare tutto e in più ce lo deve fare anche, ce lo deve dare gratis, che significa tassazione asintotica, per cui non si fa più niente. Il comunismo, 100% di tasse, esatto. e poi lo ridistribuisce, esatto, in modo che tutti ci hanno tutto. E invece, come si può fare non in questa maniera? Ma come si può fare non in questa maniera? Si può fare imparando a tutti, assumersi precise responsabilità. Cioè, questa idea che la solidarietà sia un dono dello Stato, un dono della religione, no, è completamente falsa. La solidarietà è un atto cosciente, voluto, è un atto epico di simpatia nei confronti dell'altro. Cioè, l'idea che in qualche modo, come dire, debba pensarci lo Stato, è una scorciatoia con la quale ci si priva della propria forza morale. Il grande pensiero libertario, cioè il grande pensiero anarchico, ad esempio, non è mai caduto in questa coscienza di gregge. Nella coscienza di gregge c'è sempre caduto il socialismo, il comunismo, che hanno appunto poi creato un gregge che reclama fratellanza, e chi la reclama? Allo Stato. Ma allora, non la crea. Qui ti fermo perché capite che qui c'è una sottolineatura della grandezza di un pensiero anarchico innestato su solide visioni di che cos'è la moneta e dell'abuso che la fiducia pubblica della moneta, creando moneta, crea una grande illusione che tutto possa essere gratis stampando moneta, e un ritorno dell'economia di mercato a un fondamento basato sulla persona, incentrato sul fatto che le tasse dovrebbero essere solo per ciò che dobbiamo minimamente aspettarci dallo Stato, è una visione diversa, molto più equilibratrice e più antibolla di tutta quella a cui siamo abituati a pensare. Certo, molto diversa da quella che siamo abituati a vedere propalata sui giornali, insegnata nelle accademie. Ed eccoci tornati in studio per questo singolare incontro con Geminello Alvi, con il suo libro Il capitalismo verso l'ideale cinese. Abbiamo fatto un po' polpette a molti luoghi comuni di quelli che in un giorno come questo i nostri ascoltatori si aspetterebbero intorno alle decisioni che deve prendere l'Italia e non ha preso, intorno alle decisioni che doveva prendere l'Europa da anni e non ha preso anch'esse, perché ci si propone una visione radicalmente alternativa senza essere però anticapitalista, per così dire. Cioè, l'idea è, ad esempio, lo Stato dovrebbe occuparsi dello Stato e dovrebbe farlo appunto amministrando la magistratura e amministrandole ad esempio le forze della difesa interna ed esterna. Ora, questo in Italia è fatto male, perché esistono 5 polizie e esiste, come dire, una metà della nazione nelle mani della criminalità, cioè tra polizie, carcerarie, finanze, carabinieri, eccetera, eccetera. Quindi già capiamo che questo settore, che sarebbe l'unico su cui hanno senso veramente le tasse, perché è l'unico, ultimo, insomma, in cui la funzione statale è definita, già anche in questo siamo nei guai. E nessuno che ne parli di questo, tra l'altro, non so perché, ma è un altro dei tabù, insomma, non detti. Poi c'è tutto un settore, come dire, che è il settore della cultura, dell'istruzione, eccetera, che viene omologata addirittura, insomma, nei suoi vari piani dall'educazione statale. Cioè abbiamo il libro di testo, abbiamo uno istupidimento che procede dalla prima elementare in poi, uno istupidimento solidaristico, quello che si vuole, insomma, le famose socializzazioni. Abbiamo l'invenzione di parole, come dire, le più burocratiche, le più folli, insomma, basta andare in un qualunque università e vedere i corsi. Abbiamo la fine, se si vuole, della dignità della stessa istituzione accademica, eccetera, e questo ad opera appunto di una manipolazione statale che ha permesso l'università sia diventata preda ideologica negli anni, appunto dal 69 in poi, di un insieme di movimenti studenteschi, sono impadroniti dell'istituzione e appunto sono a stipendio statale e naturalmente proclamando, insegnando quotidianamente la difesa di questa idea dello Stato, perché solo lo Stato secondo loro rappresenterebbe interessi pubblici. La verità è che rappresenta gli interessi particolari, lo Stato di chi ha conquistato queste istituzioni. Esatto, questo è il punto vero. Allora, il problema di una persona Gemmello, sai, perché hai pagato prezzi amari, che nel nostro paese sostenere che lo Stato è solo chi lo amministra pro tempore con interessi individuati invece del famoso interesse generale, in Italia ti condanna a essere individuato come un matto o un nemico. Ma l'interesse pubblico è finto. Dov'è l'interesse pubblico appunto di una di tre maestre per classe messe lì per aumentare l'occupazione e che alla fine appunto servono a distruggere la pedagogia dall'inizio, insomma? Dov'è il senso di un'istituzione universitaria in cui la maggioranza dei professori c'ha più di 50-60 anni e un giovane non ha nessun futuro? E sono interessi particolari, ogni volta vantati solennemente come interessi pubblici, e guai chi glieli tocca, perché qui si costituiscono come fonte di morale. L'alternativa è quella invece, soprattutto in una fase così dolorosa della vita spirituale della nazione, della costruzione di istituzioni, di fondazioni, accademie, istituzioni solidali, nelle quali circoli l'amore della libertà che conduce all'amore della verità, che non può essere messa a voti di maggioranza. Gesù Cristo è stato messo al voto della maggioranza, la maggioranza l'ha crocifisso. La verità non è, c'è una definizione di comunismo di Bastiat che dice i comunisti, che è precedente a Marx, è molto superiore, perché appunto, e dice: ma i comunisti sono questi, la definizione di comunista, i comunisti sono quelli che vogliono mettere la verità a maggioranza. Tutto questo vogliono fare queste persone. La verità non può essere messa a maggioranza, deve trovare ambiti propri di libertà e non di giustizia. La giustizia riguarderebbe il fatto di far funzionare meglio la magistratura, di far funzionare meglio la polizia, ma nemmeno questo Stato riesce a fare. Negli altri campi della vita, ad esempio nei campi spirituali, sarebbe molto bene incaricarsi di favorire fondazioni, istituzioni solidali che favoriscano i migliori, non i più ricchi, naturalmente, attraverso sistemi di borse di studio, eccetera eccetera. Per quanto riguarda l'economia, si tratterebbe di tornare alla natura vera del capitale, che è un impegno di responsabilità, di individualismo. Il capitale è una meraviglia di questa epoca, nella sua formazione, nella sua costituzione, e deve ritornare alla propria natura epica, solidale, di simpatia, di costruzione tecnica. Se ritorna a se stesso, il capitale va a posto. Il problema è che stampando moneta si tende invece sempre ad esagerarlo, con la complicità di quanti sono gli anticapitalisti che anzi lo vogliono esagerare ancora di più con ancora più spesa pubblica. Allora, noi cari ascoltatori, finiamo questa specie di cavalcata multiculturale trasversale invitandovi a comprendere che il decumulo del capitale sarà ciò che vi attende in ogni caso, e purtroppo le menzogne dei politici dipendono più da ignoranza che da volontà di prendervi in giro, e l'ignoranza ottiene risultati peggiori della malafede. Questa è la mia convinzione di fondo, e per questo tendo a essere individuato anche un po' come classista, come oligarca. Non è così, perché abbiamo tentato anche di spiegarvi che esiste una maniera di mercato in cui però non si identifica nell'utilitarismo bieco il fondamento della religione della libertà. La religione della libertà, quella dell'economia interpersonale, non sta nell'utilitarismo, sta in una visione parallela, diversa, che significa che vita, famiglia, sanità, tutto ciò che è costruzione di fiducia non si deve fare con le eccesso di fiducia da eccesso di moneta pubblica, è proprio un'altra cosa. Se vi sembrerà troppo lontano dai guai di cui leggete oggi, io vi invito invece a cambiare idea, per perché i fondamenti di cui abbiamo parlato oggi spiegano le grandi illusioni che ci hanno portato all'esplosione di un modello di intermediazione finanziaria, dell'eccesso di consumo privato finanziato a debito e dell'eccesso di consumo di fiducia fondata sull'eccesso di inflazione di fiducia pubblica, moneta e debito pubblico. Di questo stiamo parlando. Appuntamento a domani e grazie a Gemminello Alvi, leggete il suo libro Il capitalismo, Il Marsilio, la collana e i nodi, e appuntamento a domani. Linea generale. Grazie, grazie Oscar. Yeah.